buone novità anche per i Cure, riascoltati con Play for Today. Arriverà tra pochissimo un nuovo singolo, uscirà il 13 maggio. Però la band ha preso una decisione abbastanza singolare, ovvero pubblicherà un singolo al mese fino ad arrivare all'uscita del loro nuovo album, che per il momento non ha ancora un titolo. Quindi il 13 maggio uscirà The Only One insieme alla B-side New York Trip. Il 13esimo lavoro, attenzione, della band è previsto per il 13 settembre, ma ogni 13 del mese i fan potranno gustare appunto un singolo che fa parte del nuovo album insieme ad una B-side. Non so se si è capito, ma i Cure amano in particolar modo il numero 13. Allora, 13 maggio The Only One, poi uscirà The Freak Show insieme alla bonus track All Kind of Stuff, e il 13 giugno un altro singolo per arrivare così al 13 settembre. Ma bravi Cure, o stanno anni senza farsi sentire e poi giustamente tornano alla grande. Siamo ovviamente molto curiosi di ascoltare le nuove canzoni, di sentire un po' com'è il sound di queste nuove. Io sono cresciuta con loro, quindi sono curiosa. Abbandoniamo i Cure, in arrivo ci sono gli Smashing Pumpkins. Anche loro hanno qualche dubbio, no, loro invece hanno qualche dubbio sul proprio futuro. Vedremo. Questa è Doomsday Clock. Watch it! person. Abbiamo riascoltato anche la bellissima voce di Steven Tyler e soci, ovvero gli Aerosmith, con Genie's Got a Gun, 13:48. Allora, un po' di saluti. Saluto Max 7, dice: puoi consigliarmi un libro per farmi una discografia hard rock barra heavy? Questa è un'ottima domanda, che dovrei inoltrare al buon Gravelli, visto che il radio si occupa dello spazio Hard and Heavy. Chi meglio di Gravelli, insomma, può rispondere a questa domanda, però ti faremo sapere al più presto. Saluto anche JJ da Ravenna, saluto anche Cosimo. Il nuovo album di Lacuna Coil, è ancora presto per parlarne, però insomma uscirà tra un bel po', visto che i ragazzi proprio in questo periodo stanno cominciando a pensare alle nuove canzoni, stanno provando, quindi È assolutamente presto per avere una data di pubblicazione, caro. Saluto anche Lorenzo da Cascina, dice la frequenza che hai dato per Pisa non è quella giusta di Radio Popolare. Io sto dando i numeri che mi ha dato il buon Pietro. Vedo per Pisa, Luca Livorno 98.900. Queste sono le frequenze che io ho. Adesso vado a frustare Pietro che mi ha dato le indicazioni sbagliate. Saluto anche l'infante, grazie per Play for Today dei Cure. Saluto anche Roger, dice: senti zia, lo fai un saluto fottuto alla mia ragazza che è in riunione con dei pezzi grossi in questo momento, in maglietta rossa di Marilyn Manson e borchia, dopo che le avevano intimato di togliersi i piercing. Ha messo in mostra anche quello all'ombelico, da corna al cielo. Grande, grande, grande. So che ci sono ancora quelli che, insomma, c'è una riunione di lavoro, puoi coprirti i tatuaggi o magari non far vedere i piercing, che questa è assolutamente una cazzata. Se uno è bravo, punto, però, insomma, discorso retorico. Saluto anche chi saluto, Shandy, fantastica, fantastica, lei è riuscita a portarsi una radiolina al lavoro e quindi l'ha imboscata. Saluto anche Lillo, un bacione, certo che mi ricordo delle tue mail, mannaggia, mi hai chiamato culona per anni, come non ricordarsi dei bei tempi. E saluto anche Davide che ci ha ritrovato dopo tanti anni e che purtroppo ci riperderà di nuovo, mannaggia. Intanto tra poco parleremo di Peter Gabriel, ci sono delle belle novità per questo grandissimo artista che io amo e che io adoro. Quest'oggi ce lo riascoltiamo con un suo classico ripreso più avanti poi da tanti artisti. Peter Gabriel, questa Shot the Monkey. uomo che io ho sempre adorato quando ero più giovane. Ascoltavo sì, Cure, Compagnia Bella, però ho sempre seguito anche Peter Gabriel, perché non lo so perché, però ho sempre avuto una stima particolare nei suoi confronti. Beh, il perché lo so, perché è un grandissimo artista. E a proposito di Peter Gabriel, come ben sapete lui è sempre molto attivo, fa sempre un sacco di cose molto interessanti. In questo momento ha dichiarato di voler registrare anche delle cover. E come farà a decidere quali cover inserire appunto in quest'album? Chiederà parere ai suoi fan. Già nel 2007 per il Warm Up Tour aveva fatto una cosa del genere, aveva fatto bene o male decidere la scaletta ai suoi fan tramite il suo sito web. Farà la stessa cosa per quanto riguarda la scelta di queste cover, però ha aggiunto anche: mi piacerebbe insomma inserire delle canzoni meno conosciute, quindi non le cover, quelle classiche, quelle scontate, magari anche artisti non così tanto conosciuti come potrebbero essere i mostri sacri del rock, del pop e Compagnia Bella. Quindi, se amate Peter Gabriel, suggerite qualche cover, qualche canzone che amate in particolare, lui potrebbe tranquillamente prendere in considerazione di riproporla, anche perché lui è talmente avanti musicalmente, sempre è stato talmente avanti che sono sicura prenderà in considerazione, soprattutto, come ha detto da lui proprio qualche tempo fa, gli artisti quelli meno conosciuti. Grande, grande, grande, ma che uomo Peter Gabriel, ma che uomo. Saluto il buon Bonnie, saluto anche Iaga, saluto l'Infante che ci conferma che è Radio Popolare in Toscana 98.9. Quindi ritiro le frustate al buon Pietro. Saluto Mauro da Pordenone. In una rivista di vendita per corrispondenza ho visto www.wackenradio.de. conoscete? Allora, il Wacken è questo famosissimo festival tedesco, immagino che appunto il Wacken Radio sia la radio di questo festival, o ispirata a questo festival, visto che è appunto di Deutschland, sarà una cosa tedesca. Saluto anche la piccola Gabri, la piccola incosciente che in questo momento ci sta ascoltando da scuola, mannaggia, poi danno la colpa a me. Saluto anche Fungo. Rudy da Sesto, come funziona venerdì sera la serata per la Rock Famous Stars Band? C'è una prevendita? No, non c'è una prevendita perché è un concerto in piazza, quindi non c'è assolutamente l'obbligo dell'acquisto di un biglietto. Arriva presto, così ti aggiudicherai la prima fila. Tu ci sarai? Chiede. Penso di sì, però si sa che io sono una cialtrona anziana, quindi no, ma penso proprio di sì. Anche perché è l'ultimo tour. Uffa. Ora vi lascio con l'ultima di quest'oggi. Sono i Tool, questa Prison Sex. Chiudiamo con i Tool quest'oggi con la loro Prison Sex. Stavo dicendo vi lascio con Max Terio, sì, tra un bel po', visto che in questo momento, e diciamolo, i ragazzi, lui, Ariel e se non sbaglio anche Maurizio Faulisi, sono a Radio Popolare, dove sono stati gentilmente invitati per parlare un po' così di questa ingiustizia, ovvero la chiusura di Rock FM. E in chiusura saluto anche, mannaggia, un po' di ragazzi che hanno scritto delle mail, alla Sarda Genova, ecco, saluto anche Marco, un bacione, giuro che domani leggerò i vostri messaggi. Io vi saluto, allora domani da mezzogiorno alle 14 vi lascio con una piccola pausa, tra poco un po' di musica e più avanti Max Derio. A domani, un bacione!